Io direi di incominciare subito con un'intervista. Come dicevo, abbiamo qui ospiti dei compagni e delle compagne di Interbrigadas che vengono da 3 giorni di iniziative nella capitale e appunto prima di incominciare ad addentrarci un po' di più nella realtà venezuelana, appunto chiediamogli in che cosa consiste la loro attività, il loro progetto. Buenas noches, me llamo Jacobo, soy de Interbrigadas. Interbrigadas es un colectivo que trabaja en solidaridad con Venezuela. Nació hace 5 años en Berlín, en Alemania, y está organizando cada año brigadas en solidaridad con Venezuela. Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Jacopo e faccio parte di Interbrigadas, che è un collettivo che è nato 5 anni fa in Berlino, in Germania, e organizziamo ogni anno brigate per il Venezuela. In esas brigadas apoyamos a veces proyectos de otros compañeros en Venezuela, de movimientos sociales. Y a veces también lanzamos proyectos que nacen de Interbrigadas. Aparte de Venezuela, también hicimos 2 brigadas a Bolivia, 1 a Colombia y 1 latinoamericana para Alemania. In queste brigate organizziamo, portiamo solidarietà a progetti di resistenza popolari che esistono in Venezuela e portiamo avanti progetti propri di Interbrigadas. Abbiamo anche realizzato 2 brigate in Bolivia, 1 in Colombia e 1 brigata internazionalista in giro per tutta Latino America. Y en este momento estamos con el proyecto en la construcción de la Casa Internacionalista en Caracas, que bueno, ese tema vamos a profundizarlo más adelante. In questo momento siamo impegnati nella costruzione della Casa Internazionalista a Caracas, ma questo tema lo approfondiremo più avanti. Bene, quindi prima di passare al racconto delle vostre esperienze dirette in Venezuela e quindi anche dei vari progetti che porta avanti il governo e le organizzazioni popolari venezuelane, facciamo anche appunto per far capire in che cosa si cala il vostro lavoro, facciamo un po' un quadro della situazione generale in cui si trova il Venezuela dal... appunto dopo la vittoria di Chavez dal 99, ormai sono un po' di anni che il processo del socialismo del XXI secolo è in corso e appunto cosa è successo in questi ultimi anni. Buenas tardes también a Radio Onda Rosa. Nos hizo muchas preguntas el compañero. Un poco sobre, bueno, mi nombre es Ayelen, soy de Argentina, viví en Venezuela los últimos 3 años y medio y al igual que el resto de los compañeros, tenemos diversas experiencias políticas, hemos desarrollado distintos trabajos. Le domande sono molte a cui rispondere. Il mio nome è Angelen, sono argentina e ho passato 3 anni e mezzo in Venezuela portando avanti e accompagnando questo processo. Bueno, te decía, nos hizo varias preguntas el compañero de la radio, un poco sobre nuestras experiencias. Puedo responder la mía en personal, que fue trabajar a fondo con los medios de comunicación comunitarios y con los consejos comunales, que es la estructura básica del poder popular en Venezuela. E allora, rispetto a cosa facciamo, posso rispondere con la mia esperienza personale, che è quella che è stata quella di lavorare con i mezzi di comunicazione comunitari e con i consigli comunali. Bueno, estos dos tópicos, tanto consejos comunal como medios de comunicación comunitaria, pueden ser 2 puntos de partida interesantes para hablar de lo que es el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Tanto i mezzi di comunicazione comunitari come i consigli comunali possono essere 2 elementi importanti per parlare di quello che è il socialismo del secolo XXI in Venezuela. Sono 2 esempi di autogestione, sono esempi di poder popolare, di pueblo organizzato, che sono aspetti che a volte nos olvidamos en Venezuela y creemos que todo se basa en un gobierno o en un proceso revolucionario que parte de una estructura vertical de arriba hacia abajo. Questi due processi sono molto importanti per comprendere la realtà del Venezuela, perché sono dei processi dal basso e autogestiti e popolari, e questo fa sì che in questo modo noi possiamo comprendere la realtà venezuelana in una maniera diversa da quella che si usa normalmente, cioè pensando che tutto quello che si muove in Venezuela si muove a livello governativo e dall'alto. Pero bueno, esta fue eso es alguna partecita de mi experiencia, pero les paso también con el resto de los compañeros para que cuenten en qué se han experimentado ellos. Questa è stata una parte della mia esperienza, ma adesso passo la parola anche agli altri compagni che racconteranno in che cosa si è basata la propria esperienza. Bueno, primero me presento, yo soy Tine, también miembro de Brigada, soy de Alemania también. Y estuvimos con la gente de Brigadas el año pasado. Para mí fue la primera vez en Venezuela y a mí la parte más que me interesa de la revolución bolivariana son todos los cambios en el sistema de salud. Yo me llamo Tine, sono di Berlino, sono stata con l'Interbrigada a Berlino la prima volta l'altro anno, studio medicina, e la cosa che più mi interessa è l'aspetto dei cambi che ci sono stati nel processo rivoluzionario riguardo la salute pubblica. Che, bueno, solamente para dar un breve introducción que se hizo con la misión Barrio Adentro, que es una de varias misiones que se empezaron a crear en el 2003. Es una columna muy importante también de todo el proceso. Questo per introdurre quello che è Barrio Adentro, che è il programma, la missione di salute pubblica che dal 2003 si viene attuando in Venezuela, che è una delle colonne portanti del processo rivoluzionario. Che el aspecto más interesante para mí fue ver que no es un programa de salud puesto del gobierno al pueblo, sino que es necesario que el pueblo en los barrios se organice. No es que el gobierno mande médicos, sino que a través también de los consejos comunales o también independiente de eso, se crean consejos de salud que ven cuáles son las necesidades en la comunidad y entonces piden a un centro de salud. È stata una piacevole sorpresa scoprire che queste missioni, questi centri di salute, questi moduli di Barrio Dentro non sono imposti dall'alto, non è una cosa caritatevole, ma sono le proprie comunità organizzate che si organizzano nei consigli comunali e nei consigli di salute che richiedono lì dove c'è bisogno la presenza di un medico cubano. Sí, no solo, entonces hay muchos médicos cubanos que viven en módulos, o sea, en casitas chiquitas en el barrio, y tratan de integrarse también a la comunidad, forma parte de la comunidad. Ci sono molti medici cubani che cercano di integrarsi, che si integrano nelle comunità e fanno parte della comunità, vivono nei moduli, che sono questi moduli costruiti nei quartieri, e vivono lì e si integrano pienamente con la comunità. Pero, y después también hay otros programas que del Barrio Adentro, que son la creación de hospitales más grandes, que sería los Barrio Adentro 2, 3 y 4, y siempre van creándose, bueno, centros más avanzados con más técnicas para hacer operaciones, etcétera. Ci sono anche altri centri che sono Barrio Dentro 2, 3 e 4, che sono ospedali che vengono costruiti, dove c'è vengono effettuate operazioni, analisi, tutto quello che serve di più avanzato anche tecnologicamente. Listo. Y también un punto que me gustaría mencionar, porque también es un problema común por muchas partes, lo del VIH y la SIDA, que en Venezuela también a través de los cambios en en la política de salud reparten gratuitamente todos los medicamentos contra la SIDA, que son carísimos y que la mayoría de la gente no podría pagar. Ah, e un altro degli aspetti è la distribuzione gratuita delle medicine per l'HIV AIDS, che sono totalmente gratuite, e senza questo tipo di aiuto sicuramente nessuno potrebbe pagarle in Venezuela. Dale, últimamente me presento también, me llamo Gerrit, también formo parte de Interbrigadas, este colectivo alemán o internacionalista. Y pues yo estuve en Venezuela el año pasado por 7 meses y estudié en la universidad ahí. Y también me interesa mucho ese tema de educación, porque es un tema más importante, uno de los temas muy importantes de la revolución en Venezuela. Io sono Gerrit, sono anche io dell'Interbrigada tedesco, sono stato l'altro anno 7 mesi in Venezuela, ho studiato nell'università pubblica del Venezuela, mi interessa molto l'aspetto educativo. Perché la educación del pueblo, la formación del pueblo, es una de las preguntas más importantes en este proceso, formar el pueblo que sea consciente del proceso que está pasando, ¿no? Pero esta formación o esta educación del pueblo no es una educación desde arriba, sino es una forma participativa de la educación. Y se forman círculos en los barrios para la formación pues, de la misma comunidad. Il processo formativo, il processo di educazione formativo in Venezuela è uno degli aspetti anche lui più importanti e non è un'educazione che viene dal basso ma dall'alto, ma si forma dal basso, dai circoli di studio nei quartieri, no? Sì, il governo boliviano del presidente Hugo Chavez supporta este movimiento, esa educación del pueblo, y tiene varias misiones, por ejemplo, la misión Rivas, la misión Sure, que apoya al pueblo con los recursos necesarios de esta formación. Il governo bolivariano appoggia questa formazione con la missione Sucre e la missione Rivas, appoggia economicamente con formatori e con tutto quello che c'è bisogno queste strutture che si creano dal basso. Así le dan becas a los pobres que también pueden entrar a las universidades, le dan cursos en contra del analfabetismo o pues le dan un bachillerato popular, que pues, el pueblo también tiene un bachillerato. Y así dan también borse de estudio, crean licei populares, crean varios espacios. Bueno, Nicolás, tu nombre. Nicolás, nos hiciste un montón de preguntas, apenas nos presentamos. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Ya las he olvidado. Nicolò, ci hai fatto un sacco di domande appena ci siamo presentati. Quali sono le altre domande? No, prima di passare a fare un quadro più generale della situazione venezuelana, visto che avete appunto parlato di consigli comunali e cerchiamo di spiegare un poco di che cosa si tratta, anche perché è qualcosa di diverso da quello che possono immaginare gli ascoltatori italiani, visto che in Italia i consigli comunali sono organi del comune, mentre lì sono forme dell'organizzazione popolare. Bueno, un cuadro general del proceso venezolano en un programa de radio de una hora va a ser difícil, pero intentaremos acá, entre los 4 brigadistas alemanes y yo argentina. No, después el cuadro general. Ahora preguntaba explicar qué son los consejos comunales de que hablaron, ¿no? Que son una forma de la organización popular. Ok, ¿no? Ok. Bueno, en mi caso particular justo trabajé durante casi 2 años en una escuela de formación política que trabajaba directamente con los consejos comunales. Nel mio caso particolare ho lavorato nel corso di 2 anni con una scuola di formazione politica che lavorava direttamente con i consigli comunitari. Los consejos comunales son una estructura de organización territorial que enmarcada en la ley, que lo que busca es promover la organización social, promover la organización barrial y empezar a generar una autonomía tanto política como económica de las áreas, cosa que cada barrio y cada población, siempre enmarcada dentro del reglamento de consejos comunales, pueda ir direccionando y trabajando en las necesidades que encuentre en su zona. Por ejemplo, Il Consiglio Comunale è un'organizzazione territoriale che è prevista dalla legge Ed è una maniera, diciamo, una maniera per promuovere l'organizzazione di quartiere e l'organizzazione territoriale, organizzazioni per promuoverne l'autonomia tanto dal punto di vista economico come dal punto di vista politico. Ogni barrio, ogni quartiere, ogni territorio può lavorare nel miglioramento e nella gestione del suo spazio, del suo territorio, autonomamente attraverso la figura del consiglio comunale. Bueno, para imaginarse un poco el territorio venezolano hay que saber que la densidad de población en las ciudades del norte, en Caracas, en las ciudades es muy alta, y otra cosa totalmente distinta sucede en el campo. Dobbiamo capire un po', immaginarci com'è il Venezuela. Nel Venezuela c'è una densità di popolazione immensa, grandissima, nelle zone urbane, mentre le zone rurali sono zone con una bassa densità abitativa. Bueno, il Consejo Comunale tiene distintas legislaciones, unas para el campo, otras para la ciudad. Y como te decía, busca promover la participación popular, que es una de las aristas principales del proceso bolivariano. De hecho, en la reforma constitucional que no logró aprobarse en el 2007, bajo referéndum, una de las propuestas era abolir lentamente la estructura de las alcaldías para dar paso a las asambleas generales del pueblo, organizadas como célula en consejos comunales, que después va creciendo en estructura, ¿no? Una asamblea zonal, una asamblea de Estado, una asamblea, hasta que se puedan abolir las alcaldías. Por eso es que consideramos que Venezuela tiene un proceso revolucionario che pretende la partecipazione popolare. Quella dei consigli comunali, appunto, è una proposta di auto-organizzazione di base e di autogestione della popolazione. Nella riforma costituzionale che non è passata nel 2007, una dei punti di questa riforma era quella di abolire i municipi come organi istituzionali di governo del territorio e delegare tutto il potere alle assemblee popolari dei comitati, dei consigli comunali, che dopodiché sarebbero stati inseriti nelle strutture, diciamo, di rappresentanza sempre di rappresentanza e di assemblee sempre più grandi. Y sí, pues eso es uno de, como ya dijo la compañera, es uno de las temas más importantes de la revolución, y no es solamente una ley en el papel que no tiene como como una realidad en los barrios, sino de verdad participa la gente en esos consejos comunales, y ahí se decide cómo es la vida en el barrio, cómo es su realidad en la vida. Sí, questo è uno dei punti più importanti della rivoluzione, delle cose più importanti, e non è solamente una cosa su carta, non è solo un'idea, ma è veramente una realtà nei quartieri, una forma di organizzazione reale nel territorio. Por ejemplo, en este barrio donde vivía yo, había un consejo comunal de 200 familias ahí en la esquina, y tenían varias mesas de trabajo sobre diferentes temas. Y eso es la forma como trabaja un consejo comunal. Por ejemplo, tienen una mesa de salud, una mesa por el agua, una mesa de la vivienda. Y en eso, pues, se decide, el barrio o la comunidad habla sobre sus necesidades y, bueno, buscan una solución en conjunto. Sì, bucano. Per esempio, nel quartiere dove ho vissuto io c'era un consiglio comunale composto da 200 famiglie, perché vorrei una parentesi ricordare che per fare un consiglio comunale servono nella città almeno 160 famiglie, lavorava su vari temi in commissioni, sul problema della casa, dell'acqua, su tutte le problematiche delle fognature, la gestione di fondi pubblici, ed è così la forma in cui si organizzano, parlano di queste cose e cercano di trovare delle soluzioni consensuate in assemblee. Sí, y hay que decir también que no solamente es una forma de autoorganización en los barrios que discute sobre ciertos temas, sino que también tienen recursos del gobierno que pueden manejar, por ejemplo, si tienen proyectos en el barrio para construir un centro social o algo, pueden pedir recursos al gobierno y bueno. El gobierno tiene la obligación de responder económicamente y ahí es donde uno ve no solo una participación social y política, que es un ejercicio popular, un ejercicio, sino además también la posibilidad de administrar sus recursos, sus recursos económicos hablamos, ¿no? Poder administrar dinero. Pues es una sì, è un'esperienza di auto-organizzazione non si tratta solo di discutere del destino del quartiere, ma anche di gestirlo, perché ci sono risorse che il governo è tenuto a mettere a disposizione. Il governo ha l'obbligo per legge di finanziare i progetti del consiglio comunale, no? del consiglio comunale, e quindi si tratta di un esercizio di partecipazione diretta, perché il consiglio comunale può autonomamente decidere di finanziare, di costruire uno spazio sociale, un centro sociale nel quartiere. Il governo è tenuto a finanziarlo. Y además es una manera, es una cierta explosión de poder popular, podemos decir, donde de verdad, no como antes, había una solicitud del barrio que fue por todas las vías burocráticas, por la alcaldía, para renovar una calle, para hacer una canalización, sino ahora la misma gente, la cosa anda mucho más rápido, ¿no? Y hay la obligación del Estado de pagarlo. De financiarlo, y con eso la cosa va muchísimo más rápido que antes, ¿no? Y la gente sabe cómo solucionar sus problemas, por ejemplo, el problema de la inseguridad, hacen proyectos de deporte, conciertos en la calle. Ahora en todo eso, aunque antes también tal vez lo decían, pero ahora también con aporte del gobierno, cosa que es muy importante. Si tratta di una esplosione di potere popolare. Prima per le organizzazioni territoriali, per fare qualsiasi cosa dovevano passare per le vie burocratiche. Questo era un processo molto lento e molto tortuoso. Cioè, per esempio, per aggiustare una strada dovevano fare la petizione al municipio locale, dopodiché andava al governo, insomma un processo lunghissimo. Adesso la cosa è diretta, è molto più rapida. Per esempio, cioè, se hanno un problema, per esempio, di insicurezza, o vogliono organizzare una manifestazione sportiva o un concerto, loro possono direttamente organizzarlo senza dover passare per fare tutti questi passaggi burocratici. Solo volevo aggiungere, ma anche al contrario, prima magari organizzavano concerti, prendevano la strada con le organizzazioni sportive, ma senza l'appoggio del governo in autogestione. Invece adesso cambia anche quello, un doppio vantaggio. Bueno, cada uno de estos temas da mucho para hablar, y es por eso estuvimos esta semana con varias charlas en la Exnia y en la Talpa, y estamos hoy en el programa. Esperamos poder seguir contándoles un poco más de nuestra experiencia. El miércoles a las 8 de la noche. En la Exnia. Tutte queste cose meritano di spendere moltissimo tempo per essere raccontate, e per questo in questi giorni siamo state e abbiamo fatto iniziative tanto alla SNIA quanto al centro sociale La Talpa, e per questo motivo, per continuare a parlare di queste proposte, vi invitiamo tutti alle 8 di mercoledì prossimo di mercoledì 15 alla SNIA per continuare a incontrarci e discutere di questo. È terribile. Se va de soldado y vuelve convertido en serpiente. Olvidan que tenemos tradición de guerrero. Olvidan nuestras alas y nuestros sueños.

Ed eccoci di nuovo in diretta, quindi abbiamo appunto parlato nello specifico del lavoro che avete fatto in Venezuela e appunto di alcuni dei progetti più importanti che vengono portati avanti in Venezuela, ma diciamo qua dall'esterno, per chi non è mai stato in Venezuela e spesso le uniche informazioni che ha sul Venezuela vengono dai mezzi di comunicazione di massa, la realtà venezuelana presentata è quella di una situazione dove non sono garantite appieno le libertà di espressione, di organizzazione, addirittura si parla in molti casi di dittatura. Ma qual è in realtà la situazione che vive questo paese? Bueno, antes de responderte acá los compañeros de Interbrigadas y de la Casa Internacionales, queríamos recordar a los escuchas la página web y el blog de nuestra organización, que es www.casainternacionalista.wordpress.com y www.interbrigadas.org. Ahí pueden ver los trabajos que se han hecho ahora como brigadistas, fotos y reportes para que puedan imaginarse mejor el trabajo de la organización en Venezuela. Allora, prima di rispondere a questa domanda, vorremmo lasciarvi anche dei contatti con Interbrigadas, due siti web dove potete consultare le attività e scoprire le attività che facciamo, perché sono riportate appunto tutti i progetti e le brigate che abbiamo fatto, che sono www.casainternazionalista.wordpress.com, casainternazionalista.wordpress.com e www.interbrigadas.org. Bueno, gracias por la traducción de la página web. Bueno, con respecto a lo de los medios de comunicación, la dictadura y ese combo de prejuicios que hay sobre Venezuela y el proceso bolivariano, dependen siempre desde qué lado los digan, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos los prejuicios de la derecha, que es la dictadura, el totalitarismo y la falta de expresión, y los prejuicios de la izquierda, de que es un gobierno populista, que una socialdemocracia que no avanza hacia un modelo de participación popular. E rispetto a quello che si dice sul Venezuela, bisogna prima cercare di capire queste informazioni e da dove arrivano, perché si tratta molto spesso arrivano da pregiudizi come quelli pregiudizi di destra, che sono quelli della presunta mancanza di democrazia, della dittatura e della illiberalità di questo paese, e i pregiudizi di sinistra che invece lo criticano per essere un governo, un processo socialdemocratico e per non arrivare a quel processo di costruzione popolare e di autogestione. Con respecto a los de la derecha, los que nos llegan a través de los grandes medios de información, CNN, BBC, nos podemos imaginar que tenemos que mirar con la lupa de ellos esas noticias. Es lógico que van a tildar de totalitarismo y de un país de falta de expresión los medios de comunicación contra los que el proceso lucha. Venezuela trata de poner leyes donde se prohíba el monopolio mediático, es decir, que una misma compañía no puede tener 4 emisoras radiales, 2 canales de televisión y el sistema de televisión por cable. Eso es monopolio comunicacional. Entonces, así entendemos por qué estos medios salen en contra del gobierno. Pero si visitamos Venezuela, podemos darnos cuenta que la cantidad de medios de comunicación comunitarios y la libertad de expresión es mucho más alta que la que pueden tener los ciudadanos italianos. Rispetto a quelli che sono i pregiudizi di destra sulla mancanza di libertà di espressione, dobbiamo vederlo attraverso il loro punto di vista, cioè di canali per esempio come la CNN o la BBC, che denunciano come totalitarista il governo venezuelano, ma bisogna capire che che è normale che dei mezzi di comunicazione che sono oggetto di una battaglia, perché si stanno cercando di fare leggi che impediscano il monopolio dei mezzi di comunicazione, quindi che impediscano a una sola televisione di avere di monopolizzare satellite, radio e TV via etere e tutto il resto, è normale, diciamo, che ci sia un attacco da parte di questi mezzi di comunicazione monopolisti per rispondere al tentativo di distruggere questo monopolio. Se poi guardiamo la realtà venezuelana, scopriamo che ci sono moltissimi mezzi di comunicazione alternativi e comunitari, molti di più, che crescono liberamente, molti di più di quanto per esempio ci possono essere in un paese come l'Italia. Io también quiero tocar un punto que siempre me preguntan cuando uno vuelve de Venezuela, por ejemplo, cuando se cierra el canal de televisión de la oposición, RCTV, ese canal de televisión, por ejemplo, estaba involucrado en el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno de Chávez, y un compañero de Estados Unidos dijo muy bien, por ejemplo, que si eso pasaría en Estados Unidos, que un canal de televisión estaría involucrado en un golpe de Estado, al próximo día todos estarían en la cárcel. Lo que pasó en Venezuela, por ejemplo, lo único que era que se esperó hasta que se terminó la licencia y no se prolongó la licencia por parte del gobierno, nada más. Una cosa che per esempio a me mi hanno domandato spesso è rispetto alla chiusura del canale di televisione SRTV, che è un canale di televisione che era direttamente coinvolta nel tentativo di golpe del 2002 contro Chavez. E quello che diceva un compagno statunitense era che se questo succedesse negli Stati Uniti, cioè che un canale di televisione fosse direttamente coinvolto in un golpe o in un tentativo di golpe, il giorno dopo tutte le persone di questo canale sarebbero in carcere. Quello che è successo in Venezuela è diverso, perché non c'è stata nessuna repressione diretta, solo che ovviamente allo scadere della licenza di trasmissione questa licenza non gli è stata più rinnovata. Y también quiero contar que nunca me sentía tan informado como en Venezuela. Con Telesur y muchos medios de comunicación, cuando por ejemplo la cumbre del clima de Copenhagen, nosotros pudimos ver toda la cumbre de todos los países que hablaron ahí, así que hasta compañeros en Alemania y de Europa nos preguntaron qué vemos ahí, porque ellos no tenían acceso a esa información. Igual con el G8 y con el golpe de Estado en Honduras, ahí todo el tiempo uno está informado y hay una transmisión bastante, o sea, en viva todo el tiempo, y a veces uno se pregunta entonces dónde no hay libertad de expresión. Sempre su questo tema, rispetto all'informazione, in Venezuela c'è moltissima informazione. Canale come Telesur trasmette, è un canale che ha un'informazione molto completa. Per esempio nella conferenza climatica di Copenaghen è stata trasmessa integralmente dal canale Telesur, quando in Europa i compagni non avevano accesso alle informazioni su questo vertice, cioè, e quindi chiedevano addirittura a loro che stavano in Venezuela che gli raccontassero di più di quello che stava succedendo, perché in Europa non c'era una copertura tanto completa. E lo stesso per quanto riguarda il golpe di Stato in Honduras, il G8, c'è stato moltissima informazione, quindi io proprio non vedo questa mancanza di informazione. Bueno, justamente lo que nos pasa es que podríamos estar horas hablando de consejos comunales, de medios de comunicación, pero el tiempo es corto y nos sigue. En este marco de estas dudas que aparecen en distintos países, estos prejuicios que la gente tiene por la falta de información, son los que como organización, como Interbrigadas, pretendemos de alguna manera empezar a romper, empezar a quebrar de la manera que consideramos más más adecuada, que es promoviendo el internacionalismo y el intercambio de países. Es por eso que queremos invitarlos a que conozcan Interbrigadas, a que conozcan el proyecto de la Casa Internacionalista, que se queden un rato más con nosotros en el programa de radio, podamos contarles cómo pueden los italianos que tienen muchas dudas sobre Venezuela empezar a participar, a colaborar y a interesarse de manera directa de la realidad venezolana. Bene, potremmo continuare a parlare tantissimo sulla situazione venezuelana, sui consigli comunali, la realtà dei mezzi di comunicazione, ma il tempo purtroppo stringe e vorremmo, giustamente perché il nostro progetto come Interbrigada, se rompere questo accerchio mediatico, accerchiamento mediatico e cercare di raccontare, di far vedere con occhi propri ai compagni nel mondo com'è la realtà venezuelana. Vogliamo, per questo promuoviamo questi viaggi di scambio e queste brigate internazionali e soprattutto per il momento vi invitiamo a continuare ad ascoltare la nostra proposta strategica, tattica, la nostra strategia riguardo la nostra strategia internazionalista e vi invitiamo a restare in ascolto e a partecipare di nuovo a partecipare a la riunione che si terrà alla SNIA il venerdì 16, no scusa, mercoledì 16 alle 20:30. Dale. Sì, partendo justamente lo que antes hablamos de la mala información que recibimos por los medios masivos de comunicación, es muy importante el trabajo en solidaridad con el proceso bolivariano para saber y multiplicar lo que realmente está pasando, y para eso eso es un punto muy importante del proyecto de la Casa Internacionalista, tener una coordinación también entre redes solidarias con Venezuela, que redes de izquierda que funcionan como una red para distribuir buone informazioni sobre il processo. E proprio per contribuire a questa sorta di controinformazione sul Venezuela, per noi è molto importante la costruzione di una casa internazionale, per costruire anche delle reti tra compagni di diversi paesi che si possano parlare e distribuire tra di loro una informazione altra sulla realtà venezuelana e sui processi rivoluzionari in tutto il mondo. Bueno, queremos rápidamente contar, ya que sabemos que solo tenemos pocos minutos, que ahorita contamos con un espacio físico de cual queremos partir en este proyecto, en un espacio donde podemos coordinar el trabajo de todas las organizaciones que trabajan en Venezuela o que quieren en el futuro trabajar en Venezuela. Un espacio físico en Caracas. Interbrigadas y la Casa Internacionalista abrió una oficina en el centro de Caracas donde los invitamos a participar y a formar parte de la organización para promover las nuevas brigadas italo-venezolanas. Giustamente vogliamo raccontarvi che Interbrigadas ha finalmente uno spazio fisico, una casa internazionale a Caracas che è in fase di costruzione, ma che già ha un suo spazio all'interno di un'occupazione del movimento di lotta per la casa di Caracas, che è uno spazio che vogliamo arricchire, a cui invitiamo tutti i compagni italiani a partecipare, a formare una nuova brigata italo-venezolana, un viaggio di scambio militante, di lavoro e anche, perché no, di vacanze per compagni in Venezuela che possano avvicinarsi alla cultura portando alla costruzione di questo spazio sociale che ha inaugurato Interbrigadas. E in ese espacio ahorita estamos trabajando con varios colectivos venezolanos, actividades, dando talleres, apoyando proyectos, y bueno, queremos invitar a todos a que formen parte, a que discuten el proyecto. Estamos ahorita en la fase también de escribir, de discutir entre varias organizaciones la propuesta. Tenemos, como ya he dicho, el blog de www.casainternacionalista.wordpress.com, donde nos pueden mandar un mensaje y los metemos en la lista de mail para abrir la discusión también para ustedes, todos los que tienen las ganas, para bueno, construir entre todos ese proyecto. Y también para, si tienen ganas de participar en la brigada que se va a formar eventualmente, en agosto, este año en agosto, desde Italia e Alemania. E siccome immaginiamo questo spazio come uno spazio costruito un po' da tutti, dove ognuno può apportare idee e proposte, abbiamo questo nostro blog, Casa Internazionale, come era? WordPress.org. Che .com, perdon, casainternazionalista.wordpress.com, che è un spazio che è uno spazio aperto alla discussione e all'intervento di tutti i singoli e collettivi che vogliono apportare anche alla costruzione di un'eventuale brigata italiana ad agosto in Venezuela. Dale, pues para despedirnos, llamamos a todos los colectivos y militantes de trabajar con nosotros, pues, que participen, que defienden esta revolución, porque sí, en Venezuela hay una revolución desde las bases y pues este viene de la participación de nosotros también. Y pues estamos conscientes que en Venezuela se decide el, pues, también el futuro de un continente y así el futuro a nivel global también. E per finire vogliamo invitare tutti i collettivi e i singoli a sommarsi ad appoggiare anche politicamente la rivoluzione bolivariana, perché sì, crediamo, sosteniamo, difendiamo l'idea che ci sia una rivoluzione che parte dal basso in Venezuela, ed è importante vincere la battaglia ideologica e politica nel territorio venezuelano, perché crediamo che la difesa di questo posto significa la continuità di un progetto a livello latinoamericano e anche a livello mondiale, un progetto della sinistra in genere.